stanno entrando pian pianino negli studi di Vedevolci 56. Mentre questa è la cover di Interstellar Overdrive, un motore interstellare, poi vedremo animato e alimentato a cosa. Allora, dicevamo, mentre entrano, intanto chiediamo a... come ti chiami? Cobol. Ciao, buonasera a tutti, buonasera ai compagni e alle compagne di Radio Underground che in questo momento ci stanno sentendo. Benissimo, chiediamo... oh, guarda là chi c'è, grande, era un po' che non ci vedevamo. Aspetta, fatemi fare i saluti, io vi metto 30 secondi di musica, ma qui tocca comunque espletare i convenevoli. Abbiamo provato i microfoni, se volete già andiamo subito in diretta. Nel frattempo abbiamo mandato un po' di musica dall'universo mentre vi aspettavamo. Abbiamo raccontato che 14 e 15 giugno ci sarà la festa della radio e magari come con le biciclette siete venuti qua sotto il 24, magari ci piacerebbe anche una bella invasione così anche informale, senza andarla troppo a raccontare in giro, in quel di strike il 14 e 15, insomma, se pensavate di poter venire con le due ruote. Ma assolutamente sì, anche perché lunga vita strike, quindi sì. Tra l'altro strike, che è il luogo di una delle ciclofficine storiche di Roma, insomma. Una ciclofficina che non è mai partita realmente. Sì. No. Sì, anche se strafrequentato da BMX, ramp e skate e il caro buon vecchio Francis, okay. Che già solo lui aveva almeno una quindicina di biciclette. Che... Sì. Francis, che ricordiamo tutti e tutte, ormai scomparso da un paio d'anni, credo, forse qualcosina di più pure. Sì, due o tre anni. Oggi ho riparato la bici di Francis che verrà alla Ciemona. Oh, vedi. È un modo comunque per, come si dice, far vivere quelle persone che hanno animato la città, i quartieri. Francis era noto per andare in giro in bicicletta e nel far questo incontrare persone e mettere in moto meccanismi. Una sorta di cenotafio mobile. Sì. Allora dai, venite da dove innanzitutto? Trafelati? Purtroppo dal pianeta Terra. Purtroppo dal pianeta Terra, però dall'area. Ci sarebbe piaciuto. Dall'area 51, no? Del pianeta Terra, che dove è collocata in questo. In questo momento è un'area 51 che in realtà è mobile, anche questa al momento è collocata al Forte Prenestino, ma non solo, perché in realtà i dischi volanti che si vedranno durante la Ciemona sono stati prodotti in varie ciclofficine e quindi però tutto si concentrava soprattutto il Cyclo Camp che si sta consumando in questi giorni a Forte Prenestino, insomma in uno dei piazzali che è diventato un po' l'area 51 romana. E spiegateci un po' perché avete fatto ritardo, cosa stavate facendo senza ovviamente svelare l'oggetto materiale che stavate facendo, ma cosa stavate facendo? In realtà l'oggetto madre, chiamiamolo così senza svelare altre cose, è pronto. C'ha una ruota forata e in questo momento gli stanno riparando è ancora forato. Vabbè, poca roba però, dai. Si stanno riparando le catene per la trasmissione, per poterlo far girare in maniera splendente durante la cerimonia di sabato, perché troppo grande per farlo uscire anche venerdì. In realtà, da dove stiamo venendo? Dal Forte Prenestino, che quest'anno sta ospitando il Cyclocamp, che, per chi non lo sapesse, non so se già l'avete detto, è un evento che è, gira per l'Europa. È un bellissimo evento che organizzano le ciclofficine, è praticamente una riunione delle ciclofficine europee. Si incontrano in un posto, in questo caso quest'anno è a Roma, guarda caso proprio la settimana prima della Cemona, e si sta lì tutti insieme e si parla delle proprie esperienze, delle proprie ciclofficine, dei posti dove nascono queste ciclofficine, e si fa un vero e proprio sharing di saperi meccanici, e si costruiscono bici più o meno utili. Quanto è importante dentro la società dei multimedia, dei social network, della comunicazione capillare di massa, così invece incontrarsi vis-à-vis, e non solo incontrarsi ma proprio fare le cose materialmente, appunto mi dicevate che adesso stavate... È fondamentale, tant'è vero, cioè, tu pensa che il Cyclocamp va avanti grazie a una mailing list. Per assurdo, non ci sono canali Facebook, non ci sono social, se non una mailing list dove qualcuno si propone. Quest'anno è stato proposto di venire tutti, sono stati invitati tutti da gennaio a venire al Forte Prenestino in questa settimana, ed è fondamentale rincontrarsi, perché poi si vedono quelle facce note che magari vedi una volta l'anno, da 10 anni, 12 anni sono loro, e poi c'è un ricambio generazionale. E vedi come anche le cose cambiano. Vedi tecnicamente anche cambiano. Si chiama IR3, quindi incontro ravvicinato del terzo tipo. Questo anche un po' per mettere tutti i pedalatori che verranno alla Cemona sulla buona strada di quello che andremo a fare. Quindi incontro ravvicinato del terzo tipo. Esatto, con gli elettrodi. Benissimo. Allora, vogliamo mettere subito i piedi nel piatto e parlare di questa edizione della Cemona, che ritorna a Roma dopo 4, 5, 6 anni, non ricordo più bene quanto... Te lo dico subito. Allora, la Cemona è stata per 11 anni organizzata a Roma. Sì. E finalmente, dopo 11 anni, siamo riusciti a farla espatriare. Migrare, esatto, perfetto. E furono i primi milanesi. Poi ci fu Bologna, poi ci fu Bari. Tutte città dove comunque la critical mass è una pratica che comunque ognuno nei suoi modi, con le sue caratteristiche, però si... Sì, tutte si città esercita. Anche con delle strutture occupate che erano in grado di poter ospitare tutta la famiglia, capito, che dei campeggiatori e tutto il resto. Questa è una cosa molto molto importante che stasera ribadiremo in più di un'occasione. Quest'anno è tornata a Roma perché le città che si erano candidate, tra virgolette, per fare la Cemona non avevano delle strutture sufficientemente autogestite, libere, indipendenti, per poter ospitare una cosa così particolare come la Cemona. Faccio l'esempio di Lecce, dove c'era addirittura una struttura bellissima, che sono le manifatture Knoss, dove però per pararsi un po' il culo addirittura avrebbero chiesto carte d'identità o di fermare liberatorie, cosa che è assolutamente inimmaginabile per chi viene a fare la Cemona. E sì. Quindi ribadisco che quest'anno è tornata a Roma anche perché abbiamo tutta una serie di strutture e di posti occupati che stanno supportando, ci stanno dando una mano, i compagni stanno all'interno di questi posti e tutto ciò prende vita grazie a questo. Tant'è vero che sia la serata di giovedì che la serata di venerdì saranno in due posti, non a caso scelti, tra Officine Oz e Acrobax, perché sono due posti della lista nera. Sono posti da sgomberare, scomodi, e quindi noi staremo lì a far conoscere ai nostri amici campeggiatori venuti da fuori, a far conoscere la bellezza di questi posti e a dare un po' di solidarietà e supporto. E sì, Allora, quindi dopo quanti anni? Perché me lo so perso. E dopo 11 anni, dopo 15, perché poi altri 4 anni è stato 4, fuori, quindi questo qui anni. È la 16ª edizione. Okay. Quindi dopo 4 anni ritorna, ritorna qui a Roma. Devo dire che anche forse probabilmente uno degli aspetti che ha portato questa migrazione da Roma verso altre città era che comunque mentre la pratica del ciclismo urbano, quindi l'utilizzo della bicicletta come elemento vitale proprio per le persone, quindi utilizzarla per gli spostamenti con tutto, con tutto quello che concerne questa cosa qui, e poi parleremo anche di questa cosa qui, mentre appunto la pratica e l'utilizzo della bicicletta è in netto aumento, insomma per fortuna molte persone scelgono la bicicletta. Questa radio ha fatto una lunga campagna non solo per le biciclette, nei tempi più recenti per i mezzi pubblici, cioè per non utilizzo dell'automobile, l'utilizzo dei mezzi pubblici. Abbiamo detto già nelle passate edizioni che il mezzo pubblico e la bicicletta sono in qualche maniera intersecabili, è possibile comunque attraverso anche un utilizzo opulato del mezzo pubblico in sincronia, in accordo, in sinergia con la bicicletta, poter diciamo semplicemente con una pratica, un esercizio, migliorare un po' la vita di tutti e di tutte, se non fare degli enormi cambiamenti. Quindi insomma abbiamo un po' continuato in tutto questo periodo questo tipo di ragionamento anche come radio. La domanda qual è? Però a un certo punto la Cemona invece perdeva, almeno quella romana, perdeva un po' di verba rispetto a delle edizioni più che altro irripetibili, ecco, nell'arco di questi 11 anni in cui veramente c'era una massa di gente fenomenale, ma questo non sempre corrispondeva poi invece a un utilizzo poi specifico della bicicletta. Insomma mi è sembrato comunque anche in questi 4 anni che la bicicletta si utilizzi di più. La Cemona invece aveva perso un po' del suo smalto iniziale, o forse nemmeno iniziale, in pancia a questi 11 anni abbiamo avuto le edizioni più, però rischiava un po' di diventare anche un esercizio così rituale di fine maggio. Sì, a Roma si stava creando negli ultimi anni un fenomeno davvero particolare, che non era più nemmeno il ciclista della domenica, ma purtroppo, ahimè, era diventato il ciclista della Cemona, cioè il compagno della struttura che si procurava la bicicletta per pedalare una volta all'anno in questa iniziativa molto folcloristica e politicamente corretta della Cemona, ma poi di fatto durante l'anno non ci provava minimamente a provare a cambiare la propria vita utilizzando la bici. Sì, questo è vero pure che la Cemona è mancata da Roma perché sì, è stata fatta in altri posti, quest'anno vedremo come risponderà la cittadinanza. Ti posso dire che in questo momento al Forte Prenestino è pieno di gente e sono tutti stranieri. No, ma sono sicuro. Stanno venendo tantissimi stranieri. Benissimo. Ma proprio benissimo. Tanti, ti faccio un po' di numeri. 54 dalla Spagna, 26 dall'Austria, e francesi ne sono una ventina. E posso dirti che ne ho incontrato un gruppetto oggi sulla Flaminia, che è possibile? È possibilissimo. Che venivano, sì. Insomma, con biciclette abbastanza cariche. Sì, esatto. Credo che fossero i francesi. Sì. E da fuori stanno venendo in tanti, anche da fuori Roma. Pescaresi, baresi, leccesi, fiorentini, milanesi, da Forlì, dai posti più di Salancona, dappertutto stanno arrivando in tanti. Credo che la serata tra il venerdì e il sabato a campeggiare al Forte saremo più di 200 persone. Ok, questi i numeri delle persone che vengono da fuori per pedalare la Cemona. Ora vedremo invece i romani. Va bene, dai, mentre prepariamo, ma sicuramente risponderà, perché secondo me invece appunto pure questa mancanza, questo periodo, che comunque è un periodo di Cemona, poi le critiche al MAS, settimanali, Bike to School, un sacco di iniziative insomma che si sono sviluppate proprio in questi anni, ci hanno avuto seguito, più o meno fortuna, insomma hanno continuato ad alimentare il movimento. Lasciamo adesso qualche minutino di suoni di musica e articoliamo il discorso per come verrà in seguito. Per introdurre pure il prossimo tema che andremo ad affrontare, o comunque tutte le tematiche verteranno intorno a questo punto centrale, il 14 di giugno verranno Plutonium Baby, che sono dei ragazzotti che vengono da Plutone a suonare per la radio. e fanno questo surf garage rock and roll fighissimo. E quindi vi lascio la parola per descrivere qual è il tema di questa Ciemona 2019 e i microfoni. Quale sarà, insomma, qual è stata l'idea? La Ciemona di quest'anno vuole ruotare intorno a un tema in particolare. E ruota non è un non è ruotato accidentalmente. Sì, c'è un momento angolare, diciamo, intorno ad un argomento in particolare, forse anche in maniera un po' diversa dalle precedenti edizioni, che è No Border, quindi la volontà di mancanza di confini in un periodo che invece è un periodo centrifugo, diciamo, in qualche modo, in cui non solo le persone vengono espulse dai centri, dalle città, in cui esistono veramente design atmosferici che in qualche modo allontanano le persone, design ostili verso le persone, ma ci sono proprio rispingimenti veri e propri, insomma ci sono i non approdi che in qualche modo caratterizzano e tra un po' di anni avranno caratterizzato questo processo periodo. Processo violento o meno, che sì, però sì. C'ha come risultante questa... Sì, che si dimentica a volte che riguarda anche gli autoctoni da un certo punto di vista, no? Nel senso, quello che dicevo, il design ostile, le città sempre più ostili, cioè in qualche modo lo sviluppo di un design atmosferico nelle città che è sempre più arrabbiato, sempre più ostile e sempre più furastico rispetto a chi invece la città sì. Furastico rispetto alla città la vive. E quindi, però abbiamo voluto declinare questo tema, visto che la Ciemona è anche un evento festoso, anche un evento che in qualche modo deve sprigionare fantasia e allegria, l'abbiamo voluto declinare in una maniera leggermente meno, come dire, meno drammatica. E quindi poi non so cosa possiamo svelare, no? Insomma, quello si diceva prima, gli incontri ravvicinati del terzo tipo, l'area 51, insomma abbiamo voluto parlare di immigrati che non sono immigrati, che vengono da questo pianeta, che non vengono esattamente da questo pianeta, o almeno non solo, ma magari vengono anche da altri pianeti, anche perché esiste una filmografia di fantascienza che racconta, io ad esempio District 9, un film bellissimo di fantascienza che racconta di alieni immigrati che arrivano sulla Terra e di tutte le problematiche che questi incontrano, e addirittura di gruppi che sulla Terra sono discriminati, che a loro volta diventano discriminatori rispetto agli alieni, ai gamberoni che arrivano sul pianeta Terra. Ecco, questo ci sembrava un tema che in qualche modo potesse includere tutto, potesse raccontare bene tutto, lo potesse raccontare anche da un punto di vista meno drammatico, perché poi in realtà noi viviamo dentro una distopia, ma non ci va di raccontare la distopia, non ci va di essere parte della distopia. Riconosciamo la distopia, ma in questo vogliamo essere forse utopici, vogliamo essere utopia rispetto a ucronia al massimo, rispetto alla distopia che in qualche modo ci caratterizza. E quindi abbiamo voluto dare un'atmosfera particolare a questa Ciemona, proponiamo di dare un'atmosfera. Dal forte, dal porto fluviale usciranno degli oggetti particolari, e abbiamo anche invitato attraverso i social, abbiamo invitato chi parteciperà, chi verrà a pedalare con noi, ad adeguarsi in qualche modo, possiamo dire, no? Poi agli alieni, perché gli alieni sono, appunto, come dicevo prima, molta filmografia, questo è spiegato, sono coloro da respingere, però vogliamo anche valorizzare questo essere noi alieni. Se d'altro, se ti posso interrompere un attimo, in questa te hai ricorso, appunto, a degli emblemi fantascientifici e anche a delle suggestioni fantascientifiche. Quanto poi in realtà la fantascienza, cioè il voler lavorare con l'immaginazione pensando il futuro distopico, utopico, come a seconda poi dell'autore, no? Che è dell'immaginazione che si dà di solito è distopia. Nella fantascienza non c'è mai un futuro roseo e questo è una tendenza recente, purtroppo, ed è sbagliato, nel senso che in realtà è un adeguarsi a quello che sono un po' l'atmosfera, i ritmi del reale, della realtà. È una fantascienza a breve di corto respiro, sì, fondamentalmente. Sì. La distopia in questo, secondo me, è autodistruttiva. Lo parlo personalmente, certo. Credo che in generale il fatto di riferirsi a un'utopia in questo senso sia esattamente la domanda, o la mia osservazione era proprio questa: quanto in realtà, appunto, la fantascienza ci può essere utile, nel senso che molte volte la realtà la supera, cioè guardando magari un film di 30 anni fa che parlava di una società pessima, invece poi ci accorgiamo che addirittura la realtà ha superato quel tipo di immaginazione. È forse questa la coscienza da cui facevi riferimento te, cioè la coscienza in realtà di questo mondo bruttissimo in cui viviamo, ma che comunque noi continuiamo a riderci sopra, a scherzarci sopra, a rivoltarlo e a immaginarlo diverso. Guarda, la fantascienza per un periodo ha prefigurato il mondo e l'ha prefigurato anche a lunga distanza. Oggi il racconto fantascientifico si è molto schiacciato, si è molto ristretto sul surreale. Dopo il cyberpunk, dopo la rivoluzione cyberpunk degli anni Ottanta, c'è stato fondamentalmente c'è stata una compressione. Adesso, dal mio punto di vista, la fantascienza diventa uno specchio appunto a breve raggio di quello che può essere il domani, quindi non più prefigurativo di possibilità, ma in realtà come una prefigurazione delle lotte a venire, se vogliamo. Va bene. Allora, come prefiguriamo invece le connessioni che intendiamo creare con questa CMona di quest'anno dentro Roma? Cioè, quali sono la bicicletta serve per collegare, innanzitutto per collegare un luogo a un altro. Essenzialmente ci servono gli spostamenti urbani, nel mio caso, come sai perlomeno te, insomma, nei spostamenti suburbani che però appunto è la stessa cosa. Poi in realtà appunto c'è questo pure urbano centrismo, non so qual è la parola esatta per dire appunto la centralità della città a discapito delle periferie e delle campagne, che è un altro argomento che forse un giorno dovrà essere affrontato in qualche maniera. Quali sono le connessioni, quali connettività cercherà il percorso sempre entropico e randomico della Critical Mass in questa edizione? Allora, sicuramente, insomma, visto il tema, è la prima volta in realtà che una CMona ha proprio un tema centrale così esplicito, così manifesto, e penso sia bello e utile visti i tempi che corrono, e questa cosa sicuramente ci ha anche portato a fare una rete, a cercare di essere più trasversali possibili e non necessariamente, insomma, con l'attenzione solo e soltanto sulla bicicletta. E quindi venerdì la Critical Mass di venerdì passerà da Ararat, e che tra l'altro ci darà anche supporto sabato con la cucina dentro al forte. Ci saranno varie situazioni, insomma, che gestiranno la cucina oltre alla cucina popolare. Comunque venerdì passeremo fuori Ararat perché è il ventennale di Ararat, e quindi faremo, vogliamo ricordare pure, perché poi noi trasmettiamo Radio Rossa e diamo per scontato ovviamente che tutti sappiano che cos'è Ararat, però se lo vogliamo pure spiegare, perché è centrale poi proprio in questo momento specifico della storia. Giusto, Ararat è il centro culturale curdo che si trova a Testaccio, e insomma è un'esperienza gestita da persone curde che si trovano qua, e insomma penso un po' tutti e tutte sappiamo che è un popolo, insomma, oppresso, che va incontro a varie difficoltà, tra cui le migrazioni, la difficoltà anche di spostarsi, di attraversare i confini e via dicendo. Quindi insomma il collegamento è abbastanza immediato e diretto. E tra l'altro, insomma, abbiamo saputo da Ararat che probabilmente buona parte delle persone che gravitano là attorno verranno anche in CM, quindi ci sarà anche una insomma sarà una giusta miscela, una cosa a due vie, esatto, non sarà un portare qualcosa ma proprio un mescolarsi. E proprio in spirito, penso, cioè nello spirito di quello che vuole portare questa CMona. E in tutto ciò coglieremo l'occasione anche per fare un saluto ad Orso, che verrà riguardato appunto venerdì ad Ararat. Orso, insomma, per chi sta ascoltando e non lo sapesse, compagno di Firenze, era un compagno, sì, che si trovava, insomma, in Rojava per mantenere la per contribuire alla rivoluzione e niente, rientreranno le sue spoglie. È rimasto vittima di un incidente di guerra, sì, diciamo, intorno a quello che è la guerra che comunque ci sta in quei territori. E mi sembra marzo, no, a febbraio. Penso marzo, mi pare marzo. Vabbè, qualche mese fa, insomma, in quel periodo lì ha perso la vita, va bene. E poi ci spostiamo. Esattamente. Dopo Ararat finiremo ad Agrobax. E Agrobax, che fa parte di quella famosa lista di 22 posti tra centri sociali e case occupate. E ci sposteremo là. E proprio appunto, come si diceva prima, anche per rimarcare proprio l'importanza degli spazi occupati, dei centri sociali, che ora più che mai sono, insomma, in una situazione sicuramente poco comoda. e per rimarcare proprio l'importanza non solo della funzione che hanno strettamente per ciò che avviene dentro al centro sociale, ma proprio per la ricchezza che danno poi a tutto un tessuto umano, un tessuto urbano, e insomma sicuramente contribuiscono molto anche fuori dal centro sociale stesso. E quindi c'è parso indispensabile, insomma, allargarci il più possibile anche da quel punto di vista. E quindi centrale ovviamente la presenza in un posto che al momento è tra i primi, insomma, minacciati di sgombero, e così come Oz, che per altri motivi, Officine Zero a Portonaccio, per altri motivi anche loro si trovano sotto sgombero. E questo, insomma, è il secondo punto focale per quanto riguarda la mescolanza, il convergere, insomma, di vari percorsi. Come sappiamo, poi la CM non ha un percorso prestabilito, i critical mass appunto sono per questo, perché sono masse critiche incontrollabili in realtà, e sperimentate per la prima volta poi magari a San Francisco, no? Il termine è stato coniato, però non hanno appunto un percorso prestabilito, ma possono avere dei punti d'approdo, dei punti di passaggio. Esattamente, diciamo che generalmente durante le CM si tratta principalmente di suggerimenti. E non sono capitate, cioè non sono mancate le volte in cui è capitata anche una serie di proposte contestualmente, proprio a vedersi all'appuntamento, che è tra l'altro il lancio, che è l'ultimo venerdì del mese a Piazza Vittorio dal lato del tram verso le 7 di sera. E non sono mancate le volte che c'erano più posti dove andare e più cose da fare. Altre volte ovviamente si converge verso l'unico posto, perché è dove comunque è più opportuno dare presenza o sostenere un qualcosa, insomma, un percorso, un evento specifico di finanziamento o quel che è. E quindi sì, il percorso non è stabilito ed è proprio nella natura della critical mass. Però sicuramente, insomma, sono proprio ben accetti i suggerimenti su non soltanto punti di approdo, ma anche punti da attraversare per i motivi più disparati, insomma. Siccome però quando si va in bicicletta, poi vabbè, bicicletta intesa con le due ruote, nella Cemona ovviamente, nella CM, nel critical mass, ma nella Cemona principalmente, ci sono degli oggetti a trazione umana non meglio definiti, in questo caso proprio degli UFO, degli oggetti non riconducibili. Non svelare i segreti. Non svelo i segreti. Hai ragione. Comunque va bene, quello che volevo dire è che difficilmente, poi magari qualcuno ci riesce, però difficilmente si riesce, ma adesso capirete piano piano dove voglio arrivare. Non si riesce a fare quella cosa terribile che è stare sui social, almeno dal punto di vista mio terribile, e ne parlavamo pochi giorni fa, poche ore fa, con qualche compagno e compagna. Non si riesce a stare in questa posizione, insomma, io quello che no, al massimo parlo al telefono con le cuffiette, insomma, andando in bicicletta. Quindi c'è una maniera molto semplice, magari qualcuno può portare le cuffie, C'è una maniera molto semplice per seguire la Cemona, perché poi bisogna a un certo punto unirsi, uno non sa dove andare, è capitato a tutti e a tutte, ma arriva tardi, si vuole unire alla massa dei ciclisti, come fa? Ascolta la radio. Quindi sarà indispensabile. Finalmente un po' di interventi radio che raccontiamo la Cemona di sabato. Quindi sì, l'intervento è importante dire: ci troviamo qua. Esatto. Quindi domenica è semplice perché stiamo sulla Cristoforo Colombo. Sì, domenica, cioè, è non si sbaglia. Sabato posso dare un piccolo suggerimento, Cobol, non ti arrabbiare. Siamo costretti a prendere strade grandi e alte, dove non ci sono ostacoli, perché non diciamo troppo perché. Okay. Comunque, oltre alla diretta radio, sicuramente insomma molto importante, anche molto analogica, quindi bella. C'è anche un'applicazione che si chiama Critical Maps, che è un'applicazione sviluppata. La modernità che rompe. Però è completamente fuori da qualsiasi giro di social e via dicendo. Okay. Non traccia, un'applicazione a sorgente aperto. Per chi addirittura volesse usare F-Droid e non il Play Store di Android, si trova anche sullo store. Qui guarda, non ti seguo già più. Comunque c'è questa applicazione che dalla presenza di un sito dove è possibile che scaricare accesa. Le app che non è Google. Esattamente. E da là si può vedere in tutto il mondo dove si trovano tutte le persone che in quel momento hanno Critical Maps acceso. Quindi questo vale sia durante la Cemona, ma anche durante le CM, anche durante un qualsiasi altro giro in bicicletta. È molto carino, è completamente anonimo, quindi comunque in linea con tutta la serie di principi. Va bene. Allora, prima di affrontare sabato, vogliamo lasciare ancora qualche... Penso abbiamo finito, no? Venerdì più o meno. Ci siamo dimenticati del giovedì. Di domani, di oggi. Sono le 00:50, quindi esatto. Di oggi. Oggi, tra 20 e rotte ore, ci sarà il primo giro di ricognizione, di prova del carro che è stato costruito oppure approdato, ma non abbiamo capito se è stato costruito oppure sceso. Il secondo giro di prova. Perché c'era quello che siamo venuti qui alla radio, esatto, sì. Quindi il primo giro del carro madre, il secondo giro del carro figlio, diciamo. Okay. Così, esatto. Che dal Forte ci sposteremo a Oz, perché come dicevamo prima, Oz è un altro obiettivo che ci piace descrivere e raccontare a tutte le persone che sono venute al Cyclocamp, glielo vogliamo far conoscere perché è un posto davvero bellissimo. E giovedì sera, quindi dalle 8 si parte, forse anche qualcosina prima, vediamo se ce la facciamo, si parte dal Forte per pedalare, una pedalata brevissima di 3 o 4 chilometri, ce la può fare chiunque. E andiamo a Oz a mangiare, si testa i carri e andiamo a mangiare tutti insieme a Oz. E poi ci sarà un DJ set di un bravissimo professionista dell'analogico anni 80. Okay. Poi una cosa, Gabri, secondo me andrebbe accennato adesso che stiamo parlando del mangiare. Un altro tema, topic della Cemona di quest'anno è come si mangia il giovedì, il venerdì e il sabato nei posti dove andremo. Ce ne parli te? Sì, allora la proposta che è uscita dopo una serie di confronti tra compagni e compagni, insomma, che hanno preso parte a creare tutta la struttura di sostegno, insomma, per quella che è la Cemona. E in memoria dell'esperienza che c'è stata 2 anni fa alla caserma occupata di Bari, che è uno spazio antispecista, perlomeno era antispecista all'epoca, immagino sia ancora antispecista, dove di fatto dentro si consumava cibo in linea con le posizioni antispeciste, quindi fondamentalmente cibo vegano. Abbiamo avuto una discussione in merito e quest'anno le cucine metteranno, quindi le cucine saranno tre, quindi la cucina del Forte, le cucine in movimento e la cucina di Ararat. In più ci sarà la cucina autogestita interna, insomma, al Cyclocamp. e le cucine metteranno a disposizione soltanto cibo cruelty free. Sì. E l'invito è comunque a tutte le persone che parteciperanno, quantomeno nelle situazioni di campeggio e convivialità varia, di cercare di mantenere questa linea. Il discorso sicuramente è molto ampio, fondamentalmente penso i punti centrali che abbiano poi portato a far sì che questa cosa avvenisse sono due. In primis, un diretto collegamento, insomma, tra un'alimentazione più incentrata sul vegetale per quanto riguarda dei motivi strettamente ecologisti, e quindi una convergenza, insomma, di percorsi con quello che poi è la scelta di usare la bicicletta. Certo. Ovviamente non si limita la scelta proprio di alimentazione in termini di impatto ambientale, l'impatto mero ambientale è nettamente equilibrio degli ecosistemi, insomma, già sì, ben compromessi ormai, insomma. Esatto, fermo restando che ovviamente lì non si limitano né la scelta di un'alimentazione e la pratica proprio di una, come azione politica di un'alimentazione strettamente vegetale, così come la bicicletta. Insomma, non sono due cose che fai solo per sporcare, inquinare e rovinare meno il pianeta, ma hai tante altre implicazioni e tante altre cose. Ok. Il secondo discorso molto interessante che è uscito, e sicuramente forse il più critico da affrontare proprio in collettività, è stato quello di c'è stata proprio una richiesta esplicita, una proposta esplicita di fondamentalmente la cosa che è uscita è stata: ok, cerchiamo di considerare l'antispecismo come una lotta paritetica alle altre e non come una lotta di categoria B, perché spesso avviene che, insomma, si instauri una certa gerarchia, un certo ordine delle lotte e stavamo cercando di annientare questa cosa, di appianarla un po'. E questo fondamentalmente, quindi questi sono stati i due temi centrali. Ne posso aggiungere un terzo? Certamente. Aggiungo un terzo perché nella Cemona, che è una critica al massa interplanetaria, secondo, credo che, come dire, l'antispecismo sia d'obbligo e di dovere, anche perché c'è un bellissimo racconto di Philip Dick, quindi di un romanziere di fantascienza, come dire, forse uno dei maestri della fantascienza contemporanea, che è Il Guaritore Galattico, in cui si parla, a un certo punto si dice di questo, diciamo, rappresentante del pianeta Terra che si ritrova all'interno di un congresso alieno, un congresso con altri alieni, quindi un congresso interplanetario. E si guarda intorno e ad un certo punto pensa dentro di sé: mi resi conto che molte delle specie che erano lì in assemblea con me io le avevo assaggiate. Ecco, questo potrebbe essere uno dei tipici, come dire, problemi prefigurativi che un giorno si potrebbe avere ad essere realmente interplanetari. Quindi l'antispecismo vale anche e soprattutto quando si vuole essere un po' come dire extra atmosferici anche. Abbiamo solo un enorme problema che sarà con gli abruzzesi, che hanno già rivendicato una battaglia a suon di arrosticini. Sì, sì. E sta cosa qui adesso bisognerà vabbè far quello con lì, poi appunto questo tipo di tematiche può collidere con le forme di come si dice di la tradizione. No, volevo, sì, vabbè, la tradizione va bene, lasciamola perdere lì dov'è, insomma, no, di relativismo culturale. Ah, ecco. Che è un altro tema, però il relativismo alimentare. Esatto. Relativismo alimentare, però appunto dicevamo prima che c'è una criticità anche in questo, ed è un discorso che va comunque approfondito, divanato, sviluppato, e ecco. E questa è una tappa, senz'altro è una scelta che deriva da questo livello di... Beh, insomma, il no border non si può fermare sicuramente alla specie umana, nel senso che le lotte di in qualche modo contro l'oppressione debbono estendersi ai mattatoi, debbono estendersi a tutto il vivente, quantomeno a quello senziente, insomma, minimo. Se posso dire, è stato molto, molto interessante proprio avanzare la proposta e trattarla con le modalità che stavo descrivendo prima. Proprio perché, essendo forse l'ultima delle lotte che si è aggiunta a quelle un po' più rodate storiche, certo. Non sono mancati i propri momenti di confronto, le criticità e certo, tutto quanto, e insomma, ma anche questo deriva ovviamente proprio per questa cosa che hai detto te, dalla difficoltà di introiettare comunque dei concetti esattamente tutto sommato nuovi. Nel frattempo stanno arrivando altre persone qui, è tutto molto complicato, che circolano sulle due ruote, quindi in diretta apriamo, anzi volevo un attimo concludere il ragionamento con una battuta. Un po' di anni fa, sempre in queste trasmissioni di presentazione, dicevamo che la bicicletta utilizza un combustibile fra i più salutari. Buonasera. E sicuramente questo combustibile è la pasta asciutta al pomodoro, insomma. C'è una cosa, sì. Gabri ha parlato della serata del sabato, in realtà, come dicevo inizialmente, c'è una scelta in tutte le giornate della Cemona, quindi certo, già dal giovedì sera nella cucina di Strike, certo, che Strike Kitchen, che ci darà una mano lì a Oz, sia il venerdì ad Acrobax, sia quindi il sabato al Forte, è stata chiesta questa cosa di mangiare vegan. E comunque è stata, okay, insomma, accolta, e questo sarà il tema. Adesso sì, io invece vi chiedo un'altra cosa, vi chiedo 30 secondi di musica perché andiamo a prendere le altre birre e riorganizziamo un po' le idee. Dai. Yeah. 14 e 15 giugno 2019 torna Onda Rossa Festa a Strike SPA in via Partini 21 a Portonaccio Casalbertone. 14 giugno, ore 18:30, laboratorio per bambine e bambini dal libro Il mio nome è Amal di Erika Silvestri. 19:30, proiezioni di Termini TV. Alle 22, quella sporca cinquina, punk rock contro il razzismo con Blood 77, The Devil's Hand, Pat and Colladino Goddam, Plutonium Baby, Wendy. DJ set a cura di Radio Onda Rossa. 15 giugno. Ore 19:30, concerto con Reo Lumizze, African Hip Hop da Nigeria, Mani e Senegal. 21:30, proiezione di Milano via Padova, di Rezza Mastrella. Alla fine della proiezione, incontro dialogo con Flavia Mastrella e Antonio Rezza. Alle 23:30, concerto con Art Decore, Folk Rock Band. A seguire, DJ set Dark Wave, Industrial, con Elettrodo e i Noctibus Panis. Tutti i giorni aperitivo con i cocktail di Radio Onda Rossa, cena, postazione radio in diretta, banchetto della radio, mostra su Scarceranda. Il 14 e 15 giugno 2019 torna Onda Rossa Festa a Strike SPA in via Partini 21A, Portonaccio Casalbertone. Onda Rossa Festa, Onda Rossa, Onda Rossa Festa, Festa, Festa. Io direi Onda Rossa Festa. Onda Rossa Festa! L'ironia di tutto questo è che forse l'ironia di tutto questo non esiste. E adesso dormici sopra. Buonanotte. Sì. Allora, a mezzanotte e 16 minuti torniamo in onda per presentare questa Cemona 2019 in questo maggio di amenità atmosferiche. Però credo che possiamo escludere qualsiasi evento temporalesco, no? All'interno della 3-4 giorni ormai, insomma, ci siamo allargati anche al giovedì, sbaglio? Esatto, ci stiamo facendo aiutare dagli alieni praticamente a spostare tutta una serie di nuvole che si erano coalizzate sul Lazio quindi stiamo portando il sole. Ci sono anche progetti molto terrestri che in questo ci potrebbero aiutare in realtà. Ci sono tutti i progetti legati al cospirazionismo, che insomma in qualche modo alle guerre atmosferiche, quindi le scie chimiche. Va bene, invece tenendole fuori abbiamo, credo, degli ospiti che invece vengono non da altri pianeti, come dicevamo prima, però insomma non ci facciamo mancare niente, quindi vengono al di là di quelle frontiere che vorremmo. Esatto. Cioè tutto a un tratto si è riempito lo studio da un attacchinaggio appena finito qui a San Lorenzo, e come abbiamo fatto 6 anni fa. Prima di partire dal forte per venire qui avevo un po' allargato un invito. 6 anni fa era il forte? No, 6 anni fa era la Cemona, sempre la SNIA, sì, però era la Cemona in concomitanza con il Cyclo Camp. E avevamo fatto una serata sempre qui a 25 o'clock con i compagni venuti per il Cyclo Camp, che sono venuti qui in radio a raccontare un po' i loro progetti. Questa sera adesso in studio abbiamo i viennesi ormai mitici, che quest'anno sono venuti in pompa magna in 24, sono proprio tutti, e non so se vogliono parlare perché sono tutti un po' abbastanza provati dall'attacchinaggio, però provengono fondamentalmente dall'esperienza delle Bike Kitchen. Sì. E vogliamo ricordarlo, adesso sono non un vero e proprio centro sociale per come lo conosciamo noi, ma sono delle cucine con ciclofficina annessa. La Bike Kitchen non è una vera e propria ciclofficina, dove una volta a settimana si fa anche un pranzo, ma sì, diciamo non è. È fondamentalmente una non c'hanno loro, a proposito di culture e di tradizioni, diciamo non sono così in fissa per mangiare come non siamo hanno noi, gli arrosticini, ecco. Esatto, sì. E Bike Kitchen di Vienna, stavo parlando adesso con le ragazze che stavano al forte, hanno questo nuovo progetto delle Rats, scritto proprio Rats, che sta per Rats, it's for do you remember what the Rats means? Qualcosa a proposito di donne anarchiche antagoniste. È un acronimo. E che suona bene perché comunque Raz fa molto figo, no? questi topi, queste. E vanno in giro, organizzano una serie di iniziative. Prima tra tutte c'è l'apertura solo al femminile, non mista, quindi solo per donne, transgender, queer, due volte al mese. Apertura che per esempio avevamo provato a fare anche qui in Italia, qui a Roma, alla ciclofficina dell'ex SNIA, una volta al mese. Purtroppo, ahimè, Laura, la compagna che faceva questa cosa qui, per una serie di ragioni non ce l'ha fatta più. E è una cosa molto interessante perché all'interno delle ciclofficine comunque si instaura spesso tutta una serie di meccanismi, ahimè, molto macisti, dove alla fine la meccanica, ti ricordi, ne abbiamo già straparlato di sta cosa. Mi ricordo qui molto pure invece un'altra trasmissione, soprattutto che ospitava troglociclisti, ciclisti urbani, insomma tutte le varie correnti del ciclismo che giravano in quegli anni, che era invece la Schiena del Sol con Martis, esatto, no? Sì. Che ci teneva molto, anche perché appunto pure lei si era data da fare a mettere a posto biciclette, a automunirsi di una vecchia bicicletta, quindi in cui appunto c'era questo fatto qui, che si denunciava appunto questo tipo di atteggiamento, per cui alla fine usciva fuori levate che ce penso io, che esatto, sì, faccio sì, io, sì, sì, sì, atteggiamenti molto molto macisti, dove alla fine la ragazza che entra in ciclofficina spesso viene aiutata perché poverina, si pensa che non ce la può fare, in realtà è sì, di queste cose qui ne accadono tante nelle ciclofficine e bisogna stare molto attenti, quindi è fondamentale sempre che ci siano le compagne e sì, insomma, poi magari Gabri, se ti va anche te, se vuoi dire qualcosa al riguardo. Sì, va bene, vai, continua il ragionamento prima che Comunque adesso al Forte sì, ci sono anche loro, ci sono da Vienna. È molto interessante anche una riflessione che mi ponevo qualche tempo fa, come nel corso degli anni ho visto poi come molti di loro dalle Bike Kitchen hanno poi fatto un'esperienza lavorativa e quindi sono nate anche delle piccole cooperative che si occupano sia del trasporto, quindi si occupano di delivery, dei nuovi lavori emergenti che in qualche maniera l'uso della, pure questo sarebbe un discorso interessante. Sì, è molto interessante. In Austria e in Germania si è sviluppato in maniera molto molto critica, certo, come cosa, perché alla fine è un qui da noi diciamo si è sviluppata nella maniera italiana, cioè con molto sfruttamento. Esatto. Tra l'altro alla CIE Mona sono stra invitati tutti i riders. Assolutamente. Sì, siamo stati. Che lavorano con la bicicletta e con la esatto, strada. Esatto. L'invito è stato magari per un paio d'ore non mettersi online per rinunciare a fare un paio di consegne e venire a pedalare insieme a noi e farsi sentire come. Va bene anche se indossano la divisa e portano assolutamente la cassettina, sì, il saccone. No, anzi, non ci fa bene piacere che facciano pubblicità alle loro multinazionali, cioè, però è importante anche riconoscere. È come dire quando gli operai scendevano con la tuta della fabbrica, esatto, dai, sì, sì, sì. In qualche maniera dobbiamo rapportarsi con questa modernità, con i nuovi operai, esatto. E, dunque, prima di affrontare il sabato, che penso non ne abbiamo parlato ancora per niente nel percorso mm-hmm. del sabato, tu mi avevi chiesto di mandare una traccia che Desperate Bicycle, sai da dove vengono loro? Quale? Allora, loro hanno un'esperienza completamente DIY, quindi anche per questo ci piace un sacco menzionarli, perché autoproduzione totale, mm-hmm. si facevano tutto da soli. E credo siano inglesi, anni 80, ci piacciono, un bel rock. E quindi Desperate Bicycle, Cars. Questo pezzo. Adesso parte? Forse. On the other side. think up outside my window, my head's up in the stars. My head comes, my show comes, putting in his record in a layer in an island car. From the mud in the end, they've got to be right. Oh, here comes, status gone, black or shiny, bronze or many, just bring what you think you are. Nebula. A Radio Onda Rossa, quando si parla di critical mass interplanetaria, 25 o'clock, 36 minuti dopo la mezzanotte, andiamo avanti quindi con compagni e le compagne che sono venuti qua in radio a presentare la Cemona 2019. Credo che abbiamo affrontato, non so perché a un certo punto mi sono perso anch'io, però credo che abbiamo affrontato la giornata di venerdì. Raccontiamo un po' sabato. Raccontiamo un po' le nostre previsioni per sabato. Allora, previsioni per sabato: cielo assolutamente celeste, sole caldo, zero vento, un mare di bici. Io quest'anno prevedo almeno ottimisticamente, no, pessimisticamente un 5-6.000 biciclette almeno per la giornata di sabato. Vabbè, a parte questo, si parte dai giardini Schuster alle 3 di pomeriggio su un manifesto, alle 4 di pomeriggio su un altro manifesto, perché quest'anno ne abbiamo fatti due di manifesti. Dipende dal fuso proplanetario. Esatto, dipende anche da quale manifesto ti piace di più. Se ti piace quello disegnato da Croma, si parte alle 4, se ti piace quello disegnato da Cancelletto, si parte alle 3. E comunque le attese delle critical mass e delle cemone in particolare, in attesa che arrivino tutti, sono sempre delle attese abbastanza piacevoli. Bellissime. Ci si confronta sui mezzi, si rincontra gente che non si vedeva da diverso tempo, insomma, e si ballerà anche la murga, perché ci saranno anche le murghe, ci sarà la murga, non so se le murghe o la murga soltanto di Patas Arriba, non lo so chi ci sarà. Ma si può portare l'oboe in bicicletta sperimentata? L'oboe. Sì, credo proprio volendo, sì. Volendo, si attrezza e si fa tutto. Sì, avevamo tentato un po' di tempo fa con un sinti analogici e biciclette, ha funzionato, quindi perché è buono. Saluto Rocco, che non ci ascolterà mai da Milano. Quest'anno ha rifatto il progetto di pianoforte in bicicletta, quest'anno però è elettrificato e funziona. Benissimo, però calcola che noi facciamo lo streaming, facciamo il podcast della trasmissione, quindi semmai gliela inviamo. Ah, perfetto, ok, quindi ottimo. Non c'è problema. Insomma, quest'anno si parte da Schuster, che era un posto che in assemblea, quando stavamo parlando le prime volte di Cemona a Roma, ci piaceva come posto, sia perché lo conosciamo tutti grazie a Renoiz, ci piace, un bel giardino molto ampio, e da lì possiamo subito prendere una strada grande che sarà Ostiense per dirigerci poi verso il centro. Purtroppo, ahimè, in quel giorno lì Roma sarà già mezza occupata, almeno la parte centrale di Roma, da tutta quanta quella monnezza di mezzi militari che sfideranno il giorno successivo. Quindi boh, vedremo un po' che giro dovremmo fare, e per poi dirigersi verso Roma Est. Ovviamente torneremo a prendere la tangenziale, come vuole la tradizione, per dirigerci poi verso Roma Est e finire al Forte Prenestino in serata, verso più o meno le 9. È assolutamente aperto a tutti, a famiglie, bambini. La Cemona non è affatto faticosa. Molte persone continuano a dirmi: ah, ma non so se ce la faccio. Si va a una velocità media che è davvero imbarazzante. Si parla, cioè, si chiacchiera, sì, si sta fermi, sì, cioè, sì, ti bevi un non birra, abbiate paura. Assolutamente. Poi chi comunque non è obbligatorio farla tutta dall'inizio alla fine. È bella farla all'inizio, è bella farla alla fine, è bella farla in mezzo, insomma, poi alla fine basta cominciare e se si ha tempo si arriva alla fine e ci si ferma anche, insomma. Assolutamente sì. E ricordiamoci, c'è questa applicazione super free che si chiama Critical Maps per capire sempre dove si trova la Cemona, quindi se arrivi tardi, vuoi unirti alle 5, alle 6, non puoi venire prima, ci trovi tramite questa applicazione super free, politicamente corretta. E che c'è da dire di sabato? Sto dimenticando qualcosa, Cobol? Beh sì, il momento più importante sicuramente che vivrà la Cemona, è il momento interplanetario per definizione, quello esoplanetario, sì, per definizione. Delle tre giornate è sicuramente la più imperdibile, ecco, se avete dei dubbi su quale delle tre, sabato sicuramente la più grande. Tra l'altro io inviterei in quel giorno a far uscire l'alieno che è in noi. ma farlo uscire concretamente, nel senso che è gradito, sarebbe gradito, poi non è assolutamente obbligatorio nulla, ognuno la cemona la vive come vuole, basta che appunto la viva in uno spirito antifascista, antisessista, antirazzista e antispecista in parte o almeno tendenzialmente, ma c'è questo invito informale a far uscire l'alieno che è noi e farlo uscire e farlo vedere anche gli altri, soprattutto quindi a inventarsi magari una bici un po' aliena, ma anche semplicemente un abbigliamento un po' alieno, perché lo dicevamo, insomma, gli alieni sono quelli che respingiamo, che ci fanno considerare come degli alieni, però gli alieni siamo anche noi, perché andiamo in giro in bici, non ci pieghiamo alla logica degli oli combustibili o comunque dei, appunto, come dicevo prima, di un design cittadino che ci opprime, e quindi vogliamo valorizzarla, vogliamo farlo vedere finalmente che siamo alieni, perché è anche divertente, anche, come dire, istruttivo, e ci in qualche modo ci sprona a essere un po' diversi, forse a essere meglio. A proposito di migrazioni, di invasioni, a seconda della paura o non paura di come si accettano o meno questa sorta di alienità e questa sorta di dover convivere, di voler convivere, ecco, con il diverso, con l'altro, con colui che scombussola un po' tutte le nostre certezze quotidiane in qualche maniera, e ci fa anche riflettere su noi stessi, sul mondo in cui viviamo, eccetera. Ci fu, mi ricordo, una serie di iniziative un po' di anni fa, e volevo sapere da voi se in qualche maniera avevano avuto seguito, che volevano in qualche maniera fornire di un mezzo di trasporto proprio i migranti che andavano a lavorare essenzialmente nella raccolta dei pomodori, della frutta, insomma di tutte le attività che vengono fatte a reddito bassissimo su questo tipo di situazione. Ecco, volevo sapere da voi se in qualche maniera si è sviluppata questa serie di iniziative per fornire appunto di due ruote, di una bicicletta, a quelle persone che hanno come difficoltà principale quella di recarsi sul proprio posto di lavoro, che sono i campi di raccolta. Sì, allora sono 2 anni che nella fattispecie questa cosa è partita in un centro SPRAR a Capannelle. Delle persone che lavoravano all'interno dello SPRAR hanno contattato delle ciclofficine popolari per fondamentalmente per sistemare inizialmente delle biciclette che erano state acquistate, poi ovviamente si sono guastate un po' per inutilizzo, un po' per proprio non conoscenza di come sistemarle. Sì, no, ma anche forse per motivi di mercato, nel senso che tanti anni fa dicevamo le migliori biciclette sono i cancelli classici degli anni 80, anni 70 di ferro, che sono indistruttibili. Esattamente, La bicicletta da supermercato, da centro commerciale che c'è sta adesso, da grande negozio di vendita di articoli sportivi, normalmente sono fatte proprio, sono costruite per durare esattamente, erano bici ovviamente provenienti da una grossa catena a bassissimo costo, che hanno funzionato quello che hanno funzionato, e ovviamente all'interno degli SPRAR c'è anche una questione legata alla breve permanenza delle persone che vi risiedono, quindi nel tempo si sono guastate queste biciclette. E questa cosa ha fatto sì che in realtà si creasse una collaborazione proprio con i ragazzi che stavano all'interno di questo SPRAR, e l'anno scorso effettivamente si spostavano venendo in ciclofficina, e è stato molto interessante tra l'altro vedere proprio mandando avanti, avevano il format era quello di un corso fondamentalmente di ciclomeccanica. È stato molto interessante vedere come delle persone con delle esperienze di vita così diverse, che sicuramente hanno avuto modo di approcciare in modo più estensivo la manualità in generale, avessero una rapidità d'apprendimento insolita per le persone medie che si affacciavano in ciclofficina, proprio una praticità nel fare, nel saper maneggiare le cose, comprendere come funzionano le leve, gli strumenti e via dicendo. E quest'anno lo stesso SPRAR ha ricontattato delle persone della rete ciclofficine per una serie di contingenze proprio di natura prettamente organizzativa. Questa cosa adesso si sta svolgendo allo SPRAR, che nel frattempo sta costruendo un parco attrezzi e sta cercando di tirare su una situazione che in qualche modo consenta il mantenimento di queste bici. Situazioni extraurbane che ci racconterà Piero. Sì, quello che è successo, forse Fefo faceva riferimento a quello, e anni fa purtroppo questa cosa qui non è stata più replicata, e andammo con una delegazione delle ciclofficine romane giù a Rosarno ad insegnare come riparare le bici, e portammo giù tutta una serie di cancelli, bici, pezzi, attrezzi, giacchetti per tutti i braccianti che stavano giù in quel periodo molto caldo, che era la rivolta di Rosarno. Questa è una cosa che purtroppo dovremmo ricominciare a fare, perché è stata molto efficace. È stata molto efficace perché all'interno poi loro dei loro campi erano già auto-organizzati, però con questo aiuto che gli abbiamo dato noi da Roma, soprattutto con gli attrezzi specifici, che ne so, lo smaglia catena, la chiave per i coni, tutta una serie di attrezzi un po' più. C'è stato il salto di qualità, insomma. Esatto, sì, moltissimi di loro hanno ricominciato a spostarsi in bici autonomamente, quindi sfuggendo un po' al caporalato, ai trasporti con i furgoni e bla bla bla e via discorrendo. Bene, ancora qualche istante quindi di pausa, di musica sempre proveniente dall'interspazio, dallo spazio interplanetario. Loro sono Spaceman 3, un altro di quei gruppi degli anni 80 che facevano space rock, e ne sentiamo un altro pochino e poi parleremo della giornata conclusiva, che è quella di domenica, che chiude la Cemona e tutto quanto. Dai, adesso 25 o'clock, Radio Onda Rossa, 87.9 della modulazione di frequenza, 48 minuti dopo la mezzanotte, Spaceman 3. O 06491750, recapito della radio, dai. We'll be right back. ci siamo, ritorniamo in onda. C'è Mone Interplanetaria che è interplanetaria, che per forza di cose si parte con l'idea, poi invece le idee che si aggregano, escono fuori altri spunti, altre deviazioni che poi finiscono per entrare nel discorso e nei discorsi che si affrontano durante queste settimane, insomma, perché da 3 giorni si è passati a 4, ma già dalla scorsa settimana si era in preparazione. Quindi, che cosa altro dobbiamo raccontare rispetto appunto a tutte queste deviazioni, questi ingressi, queste contaminazioni, questi incroci che si creano nell'ambito della... Sì, riflettevamo sul fatto mentre andava la musica che abbiamo parlato di sabato, della pedalata, non abbiamo parlato di quello che succederà al forte. E abbiamo parlato di quello che si mangerà al forte, ma non di quello che si ascolterà al forte. E ce ne parla Gabri. Allora, al forte ad accogliere la Cemona ci saranno i soggetti smarriti, che sono un gruppo resident a Centocelle Aperte, e un gruppo di ciclisti che fa canzoni sulla bicicletta. Centocelle Aperte, un posto dove c'è un'altra ciclofficina. Un'altra ciclofficina, la Luigi Masetti. La Luigi Masetti. Attivissima. E sicuramente il locale Caldaia è più bello di Roma. E quindi sì, accoglieranno i soggetti smarriti e poi ci sarà Urban Project e poi ci sarà Electrodo. Electrodo è una serata nata l'anno scorso all'interno di una ciclofficina di Roma e che da lì poi si è spostata, e quest'anno ci sarà una terza edizione di Electrodo che è partito un po' con l'obiettivo di unire la bicicletta a tutta una scena musicale che nei centri sociali un po' manca, insomma, tutto ciò che è più sperimentale, quelle cose un po' che al momento sono legate ad altri contesti, insomma, e nel centro sociale mancano un po'. E al cuore di Electrodo, una delle componenti fondanti è stato il collettivo LAR, scritto L4R per chi volesse andarli a cercare, che si occupa di installazioni visive, videomapping, VJ, eccetera. E per riallacciarci un po' al discorso che stavamo facendo prima di sessismo all'interno delle ciclofficine e via dicendo, LAR ha iniziato l'anno scorso una raccolta di video e riprese di donne in bicicletta e di biciclette e donne, e che sono stati parzialmente proposti durante alcune serate Electrodo. Non so se verranno proposti questa volta, immagino e mi auguro di sì. E questo, insomma, è un momento sicuramente molto interessante, molto stimolante. E questo, e poi la serata proseguirà, insomma, in stile Cemona, che non si sa bene né dove si va durante la Cemona, né dove si finisce fisicamente, né proprio dove si finisce durante la serata. Sì. Su questa cosa, se posso dire, su questa cosa dei donne e biciclette. E adesso io non me lo sto facendo una cosa brutta perché sto citando una cosa che non mi ricordo, ma c'è uno studioso americano che ha fatto uno studio molto bello che si trova sulla rete in PDF, scaricabile gratuitamente, magari lo mettiamo sul blog, sul sito della CM, chi se lo vuole scaricare, che mostra come già negli anni 40 e 50 tutta una serie di scrittori di fantascienza utilizzassero la bicicletta proprio come mezzo antagonista nei loro racconti, più o meno consapevolmente, come mezzo antagonista alla prepotenza dell'emersione dell'industria dell'automobile, sostanzialmente. Quindi la bicicletta, al di là di donne e bicicletta o comunque di particolarismi che si possono applicare alla bicicletta ha già di per sé un senso antagonista in questo senso, e questo studio è molto bello, devo dire che secondo me i ciclisti se lo dovrebbero leggere tutto, cioè, questo studioso tira fuori tutta una serie di autori classici proprio della fantascienza e mostra come in alcuni loro racconti parti della struttura narrativa ruoti intorno alla bicicletta e la bicicletta funzioni proprio come macchina antagonista in quel momento, in cui nel momento in cui la bicicletta viene messa da parte perché emerge, perché prepotentemente emerge l'automobile, l'industria dell'automobile. Bicicletta, ricordiamolo, non solo nella fantascienza e nel futuro, ma anche nel passato, è stato un mezzo fondamentale alla resistenza. E la bici veniva usata dai partigiani e dalle partigiane, e veniva usata anche per, se non sbaglio, era Bartali. Che a Roma durante l'occupazione nazista fu vietata la bicicletta perché i partigiani la usavano per gli attacchi contro i nazisti. E se non sbaglio Bartali trasportava le mappe per la resistenza durante gli allenamenti, nascondeva nei tubi della bicicletta e riusciva a coprire distanze molto grandi avendo la scusa di starsi allenando, in realtà dava una mano anche alla resistenza. Ho capito, va bene, dovremmo studiare penso di più perché le citazioni erano un pochino, no, mi avete preso, no, citazioni sì, ma anche un po' così lasciate non troppo precise da parte vostra, da parte mia non vi so supportare. No, magari tutto ciò che abbiamo detto però possiamo aggiungere facendo sul sito della Ciemona. Sì, avremo modo, dai, comunque di riparlarne, speriamo nei prossimi mesi, nelle prossime settimane. Sì, comunque è un mondo verticale, orizzontale, quello della bicicletta. Esatto. Sì, sì. Tutti questi problemi in maniera più puntuale. E ancora la serata di sabato in realtà finisce presto perché domenica si va al mare, appuntamento a mezzogiorno, puntuali come da usanza, come da costume, esatto. Immancabilmente puntuali si parte, puntuali, e lo sottolineo, puntuali perché abbiamo parlato di resistenza e quindi da dove si parte? Da Piramide, che è la piazza della resistenza, insomma, da sempre in qualche maniera per i cortei del 25 aprile. Esatto. E anche la piazza storica da dove partivano le prime critiche al MAS romane. Certamente. E poi si spostarono, quanto, 6 o 7 anni fa, si è spostata la CM ogni ultimo venerdì del mese a Piazza Vittorio, ma storicamente partiva da Piramide. Quindi serata del sabato finisce presto perché si va a dormire e ci si riposa, perché domenica si va al mare. Un appuntamento un po' più familiare, passatemi il termine, perché nel corso degli anni era sorprendente vedere come un sacco di famiglie venivano con i bambini anche molto piccoli, che con le loro biciclettine sulla Cristoforo Colombo, completamente invasa da ciclisti, si facevano questi 20 e rotti chilometri, non ne sono 30, ne sono una manciata o più dei 20, per arrivare poi alla rotonda e andare verso i cancelli. È molto divertente, consigliatissima, acqua e ombrellini per il sole, perché ci sarà il sole, non è vero che piove domenica, no. Assolutamente. E poi diciamo di portarsi anche qualche camera d'aria? A quello ci pensano le ciclofficie, no, non è vero, è buono se poi ognuno si automunisce, ma quello è un po' alla base del ciclismo critico, cioè è importante essere sempre il più possibile autosufficienti, indipendenti. Certo. La bici è fantastica proprio per quello, a differenza della grande scatola di metallo, a meno che di guasti veramente importanti, esatto. Insomma, sì, ci si riesce a in qualche maniera a tornare a casa comunque, insomma. Sì, esatto. Quindi domenica c'è questo appuntamento a mezzogiorno a Piramide per andare a prendere la Cristoforo Colombo e sì, in 2-3 ore si arriva lentamente al mare con molta gioia. Porteremo le ciclofficine quest'anno, si sono organizzate con i sound system a livello veramente preoccupante, perché gli austriaci hanno portato praticamente un armadio che è impressionante, un sound system, una critica al pescaresi più rumorosa di quando sì, la tecnologia delle casse audio si sta sviluppando e con loro quindi anche tutte le ciclofficine di pari passo. I pescaresi stanno venendo con due sound system, i romani non sono da meno. Insomma, ci sarà una caciara indescrivibile. Benissimo. E ci siamo? Oh. Vogliamo lasciare un altro spazietto, riordiniamo le idee, vi racconto un paio di cose. Oh, a proposito di me, testimonianza fuori onda, vi racconto perché in onda non si possono raccontare. Dai. Curioso. Allora, andiamo avanti. Stavolta andiamo con dei pazzarelli, dei mattacchioni del mat rock, come si dice. Loro sono Battles e propongono queste robe qui che non so se parlano di biciclette, però parlano di cose comunque aliene. Eccoli qua, Battles. We'll be right back. 1:09, quindi ce ne stiamo per andare. Conclusioni con vai. Allora, ricordiamo che la CMONA, come tutte le Critical Mass, non sono un evento assolutamente non istituzionalizzato, è un riappropriarsi delle strade, un appuntamento casuale, non ci sono associazioni, non ci sono permessi, non è stato chiesto niente a nessuno, se non lanciato un appuntamento dove siete invitati tutti a partecipare con la vostra bicicletta più o meno aliena, con il vostro costume più o meno alieno, speriamo il più possibile alieno, così Cobol sarà felice. Dai, basta un po' di carta stagnola, insomma, poi alla fine ci vuole una roba seria, su, non diciamo cazzate, no, ci vuole proprio un vero e proprio travestimento. Vi dovete impegnare. Però se proprio non avete tempo, almeno un tratto distintivo, anche insomma. un segno va bene. Anche una connotazione, sì. Diciamo una connotazione, una connotazione aliena, sì, sì, sì. Ricordiamo gli appuntamenti: la prima è una pedalata più che altro di prova, il giovedì sera si parte dal Forte alle 8 per raggiungere Oz, tutto Roma Est, per capire il carro se funziona, se passa sotto le linee del tram, e raggiungiamo Oz, mangiamo lì e poi ci sarà un live set di Cobol. Mentre invece la pedalata del venerdì, classico appuntamento della Critical Mass mensile, a Piazza Vittorio alle 7, e passeremo da Ararat e finiremo ad Acrobax. L'appuntamento, il main appointment, l'appuntamento più importante, quello del sabato ai Giardini Schuster tra le 3 e le 4, assembramento, e poi da lì si parte, si fa un giro per dirigersi sempre verso Roma Est, finiremo al Forte Prenestino. Invece l'appuntamento la domenica a Piramide a mezzogiorno per andare tutti insieme al mare, consigliata acqua, ombrellini e asciugamano e camere d'aria Noi sì, vai. Più o meno abbiamo finito. Portate quello che volete, spargete la voce, ditelo al vicino di casa, è divertentissimo per tutti quanti quelli che hanno ancora paura di andare in giro in bicicletta a Roma. Cazzo, questo è il momento di uscire. Sì. Venire in strada con noi e capire che, a parte che Roma è bellissima, ma poi farlo insieme a altre migliaia di ciclisti intorno a te, sì, un bello spirito ti fa salire il fomento. Andare in bicicletta è bellissimo, è divertente, è piacevole, è un'esperienza, è rivoluzionario. È un'esperienza da fare ed è rivoluzionario. Quindi non dovete far altro che spolverare, se, perché sicuramente ce l'avete da qualche parte, sicuro, una bicicletta. Il nostro invito è sempre comunque quello, chi già lo fa gode di tutta la nostra ammirazione e appoggio, e quindi ci vediamo appunto in questi giorni. Noi ce ne andiamo, prima che ancora sotto la luna comunista, come facciamo ad ogni trasmissione con The International Noise Conspiracy, ce ne andiamo con un'altra roba che mandiamo sempre, che è una cover di Billy Bragg di una canzone scritta qualche anno prima negli Stati Uniti, che è Why We Build the Wall, che si interroga appunto sul perché costruiamo i muri, che è assolutamente in linea con la domanda e l'affermazione che cerca di fare questa 3 o 4 giorni. E così ci sentiamo con le corrispondenze dalla CIA, assolutamente per la radio e dalla radio. Va bene, dai. enemy. We build the wall and keep us free. That's why we build the wall. Wow, my children, my children. Why do we have the day? Radical minds.